passato tempo, c'è solo silenzio e non si sente un soffio tra di noi, tra di noi. È assordante. Quando mi hai detto che volevi urlare senza farlo, sono rimasto aspettando. Dimmi solo chi sei. Posso crearti una canzone chiedendo scusa senza ragione. Quando mi guardi negli occhi, quando mi guardi negli occhi, scapperei. Posso crearti una canzone, dimmi tu qual è la ragione. Quando mi guardi negli occhi, se nemmeno mi tocchi, scapperei. Dicono è normale, anche se paranormale, sangue dai miei pensieri. Feste senza di me, senza di me. Notti di sospiri fanno mille giri, sbatto contro un muro intanto te la tiri. Oramai è una sfida tra me e me. When I say I got mad, you fall down, you fall down. But I swear we get up. I was kind in my head. My friend says go ahead. If it hurts, I don't care. And it's time to declare. It's just shit, nothing else. Canzone, chiedendo scusa senza ragione. Quando mi guardi negli occhi, quando mi guardi negli occhi, scapperei. Posso creare.